America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, Barack Obama, François Hollande, incontro ieri alla Casa Bianca, un vertice drammatico, di emergenza, devo dire, dopo l'abbattimento del caccia russo da parte di un F-16 turco. Sentiamo subito Barack Obama per avere un contesto delle posizioni. Well, first of all, we're still getting the details of what happened, and I expect to be in communications potentially directly with President Erdogan sometime over the next several days. Turkey, like every country, has a right to defend its territory and its airspace. Ecco, Obama dice: non conosco i dettagli, aspetto comunicazioni. Bisogna dire che la Turchia ha il diritto di difendere il suo territorio e il suo spazio aereo, ma ora è importante che turchi e russi si parlino e prendano misure per evitare questi errori. Abbiamo un problema con le operazioni russe, questo è un punto importante, con le operazioni russe in Siria, dice Obama. Sono troppo vicini al confine turco, il margine di errore è molto alto, per questo dobbiamo muoverci verso quel processo politico che abbiamo stabilito a Vienna al più presto. La Russia è benvenuta la settimana prossima al vertice di Parigi sull'ambiente, il dialogo continua. E sentiamo adesso Hollande. Cet événement qui s'est produit est grave et évidemment regrettable. La Turquie est en train de donner toutes les informations en ce moment même au Conseil Atlantique. Per sapere esattamente ce che si è prodotto. Quel che è successo è un fatto grave, dice Hollande. La Turchia ci ha già fornito tutte le indicazioni al Consiglio Atlantico. Si è trattato di una violazione. Dobbiamo evitare l'escalation. Noi, la Turchia, la Russia, siamo obbligati a trovare una soluzione alla questione siriana. Ecco, questo è un po' il crocevia su cui i nodi vengono al pettine. Tra l'altro, François Hollande domani si recherà in Russia, avrà un incontro col presidente Vladimir Putin, doveva essere un incontro, come dire, per cercare di dare solidità a una coalizione anti-ISIS. A questo punto tutto viene rimesso in discussione. La strategia del presidente francese e quella di Barack Obama la conosciamo, la priorità militare di riprendere zone vitali in Siria e in Iraq, di controllare la frontiera con la Turchia, di prevenire il terrorismo in Europa. Ieri, proprio in conferenza stampa, François Hollande ha detto ancora questo. Sentiamo. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza, che è stata votata all'unanimità vendredi dernier. La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU provvede alla base giuridica, per questo diplomaticamente io e Obama vorremmo tracciare un timeline per la transizione, partendo dal cessate il fuoco fino all'uscita di scena di Assad, responsabile di 300.000 morti in questi anni. Assad non può essere parte della soluzione della crisi, non possiamo abbandonare i rifugiati bombardati dal regime e in fuga per le atrocità dell'ISIS. Tradiremmo noi stessi, lavoriamo a una soluzione politica in Siria, invitiamo tutti i paesi a partecipare senza escludere nessuno. Qui c'è un messaggio chiaro di nuovo alla Russia. Però, come vi dicevo, eravamo un passo dal compromesso, ora tutto è da rifare. La situazione è complicatissima. Perché? Perché i russi attaccano i ribelli ostili al regime di Bashar al-Assad per proteggere il governo di Damasco. I turchi sono invece schierati contro Assad, vorrebbero proteggere i ribelli e chiedono che la Russia attacchi invece l'ISIS, il califfato da cui originano gli attacchi terroristici anche in Europa. L'America con la Francia è un'alleanza di 64 paesi, attacca invece l'ISIS e sta preparando un'operazione militare per la presa di Rocca. Impresa questa che dovrebbe essere guidata da truppe sunnite oltre che curde. Perché? Perché la Turchia vede con sospetto il coinvolgimento dei curdi, che poi sono stati gli unici ad essere davvero molto efficaci contro l'ISIS. Però la Turchia non gradisce queste operazioni militari curde, in quanto ritiene che il movimento indipendentista curdo possa rafforzarsi a danno dell'integrità territoriale turca. Insomma, la situazione, come vi ho raccontato anche nei giorni scorsi, è straordinariamente complessa, ma è per questo che l'America ha deciso di coinvolgere i sunniti per la presa di Rocca. Per Washington occorre tenere l'alleanza unita e rispondere alle esigenze di tutti, che come abbiamo visto sono contrastanti. Ed è qui che entra in scena la Russia. E Putin e Hollande avevano deciso di coordinare alcune operazioni militari in Siria dopo l'attacco terroristico dell'ISIS a Parigi. E dunque la Francia diventa cerniera per formalizzare una missione comune alla quale la Russia poteva essere interessata per rafforzare la sua legittimità internazionale sia sul piano militare che su quello diplomatico. E l'America, soprattutto dopo gli accordi di Vienna che prevedevano un percorso per la transizione in Siria, chiedeva che Mosca attaccasse soltanto le forze del califfato. Adesso qui la retorica impazza. Putin dice siamo stati pugnalati alle spalle, come dire qui c'è un complotto, perché nel momento in cui cercavamo di fare delle cose insieme, ecco che ci tirano giù un aereo. L'obiettivo centrale, direi, deve essere quello di mantenere prima di tutto nervi saldi, al di là delle dinamiche che hanno portato all'attacco dei turchi contro l'aereo russo. Resta l'obiettivo comune e centrale di distruggere il califfato, di impedire che le forze dell'ISIS possano essere in grado di organizzare con facilità altri attacchi nel cuore dell'Europa. E qui di nuovo Putin attacca la Turchia, dice in realtà la Turchia compra del petrolio dall'ISIS, dunque l'appoggia. E insomma, la situazione si complica. Dai confini fra Turchia e Siria, dalla capitale americana, i riflettori si spostano ora su Mosca e sul vertice Putin-Hollande, proprio nel giorno in cui l'America festeggerà il ringraziamento per il Thanksgiving. Chissà che l'incidente di ieri mattina non possa convincere che procedere in ordine sparso e con obiettivi diversi e contrastanti, perché così sono, finirà per rafforzare l'ISIS invece di indebolirla. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, il messaggio più importante da questa Royal Mess, da questo straordinario casino che è derivato da quel che è successo ieri nei cieli turchi e siriani, e restiamo insieme per combattere il nemico comune, non perdiamolo di vista, il nemico comune è l'ISIS. E dunque di Al Green, Let's Stay Together, stiamo insieme. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.